Il matrimonio, concepito da Dio per il bene e la felicità dell'uomo, è l'unica istituzione umana che ebbe origine prima della trasgressione di Adamo ed Eva. In effetti, dopo aver creato l'uomo, l'Eterno disse: «Non è ben che l'uomo sia solo, io gli darò un aiuto conveniente a lui». Perciò, come tutti i doni di Dio, il matrimonio per chi lo contrae è buono, utile, edificante e necessario. Prova ne è che nel libro dei Proverbi troviamo scritto: «Chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto un favore dall'Eterno», Proverbi 18 e 22. Altre traduzioni rendono che chi ha trovato moglie ha trovato un bene o un tesoro. Perciò sposarsi è ritenuto da Dio una delle cose più belle della vita. E, in questa ottica che il libro dell'Ecclesiaste vede il matrimonio. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della tua vita di vanità che egli ti ha concesso sotto il sole per tutti i giorni della tua vanità, perché questa è la tua parte nella vita e nella fatica che compi sotto il sole. Ecclesiaste 9, 9. Un'altra traduzione rende: godi la vita con la donna che ami, giorno per giorno, durante la vita vana che ti è stata data sotto il sole. Che questo è ciò che solo ti spetta nella vita, e in tutta la fatica nella quale ti affatichi sotto il sole. Con una lieve sfumatura nella traduzione, la parola di Dio considera quindi il matrimonio non solo un tesoro, ma anche l'unico bene che in fondo l'uomo ha in tutta la fatica che deve sopportare per vivere e convivere con altri. Se qualcuno non è stato gravemente offeso o ha avuto delle miserabili esperienze negative, credo che tutti possiamo affermare e riconoscere che effettivamente essere sposati è uno dei doni più belli. È uno dei doni più belli per l'esperienza di arricchirsi con qualcuno che è simile a noi, ma non è come noi. E poi perché nelle inevitabili e a volte fin troppe difficili difficoltà della vita, essere in due è un gran vantaggio. Il libro dell'Ecclesiaste lo riconosce quando dice: se uno può sopraffare, chi è solo, due vi possono resistere, Ecclesiaste 4 e 12. Il matrimonio, come è stato istituito da Dio, è un grandissimo dono, perché si impara ad amare e si conosce cosa significa essere amati. Il matrimonio è una relazione unica e profonda, tale che non ve ne è una uguale con ogni altra persona umana. Nonostante il matrimonio sia uno dei doni più belli dato all'uomo da Dio, nella realtà non si presenta come tale. Molti matrimoni sono proprio un'anticipazione dell'inferno dove dolori e angosce sono all'ordine del giorno, perciò la nostra conclusione è che o non è veramente quel dono tanto acclamato, oppure Dio ha commesso qualche errore. Ma, come spesso succede nel campo di Dio, la risposta è un'altra. Dio ha creato ogni cosa bella a suo tempo, ma poiché Adamo e Eva disubbidirono agli ordini dell'Eterno in tutta la creazione, compresi gli esseri umani, è avvenuta una disarmonia tale che in nessuna cosa, compresi sempre gli esseri umani, vi è più una relazione sana e costruttrice. Tutto è diventato ragione di dolore e di doloroso contrasto. Proprio per questo, nell'esaminare il matrimonio, la gente dice con una punta di sarcasmo: lo stato matrimoniale si chiama santo perché conta tanti martiri. Oppure: il matrimonio semplifica la vita e complica la giornata. Proprio perché vi è questa presa di coscienza, è più che mai indispensabile predicare il bellissimo messaggio dell'Evangelo, cioè della buona notizia, perché il Vangelo non è solo una buona notizia che si è salvati se si pone fede in Cristo quale Salvatore e Signore, ma è anche una bella notizia in merito al matrimonio. Credendo in Cristo Gesù, l'uomo ritrova quell'armonia persa con il suo Creatore e con se stesso, e di conseguenza anche nella relazione matrimoniale. Quando il salmista considerava quanto era buono e piacevole che i fratelli dimorassero insieme, Salmo 133, 1, esprimeva un'affermazione che è valevole anche per degli sposi cristiani. Il matrimonio da inferno diventa bello e piacevole quando vi è la presenza di Cristo quale sovrano indiscusso. Purtroppo per la maggioranza il matrimonio si presenta e è vissuto come un peso. Lo dimostra il fatto che spesso, da non poche persone, anche fra credenti, si sente affermare con un velo di amarezza che se potessero tornare indietro non si sposerebbero più. Questa riflessione è espressa molto di frequente. con l'intenzione di fare una battuta, disonora il Creatore e il dono offertoci da Dio. Un detto dice che, prima di desiderare una cosa, sarebbe bene vedere e capire se coloro che già ce l'hanno sono felici. Oppure no. Se fosse applicato al matrimonio questo principio, allora quasi nessuno si sposerebbe. Ma siano rese grazie a Dio che il matrimonio rimane comunque uno dei doni più belli della nostra esistenza. Una domanda sorge doverosa. Se il matrimonio è un dono di Dio dato all'uomo, dove è l'errore? Quando un matrimonio non è né buono né piacevole, la prima risposta immediata che viene da dare è perché si ha un concetto sbagliato del matrimonio. Ogni essere umano dal momento della nascita inizia ad essere modellato per affrontare la vita in comune e ognuno, man mano che cresce, si forma quei preconcetti che condizionano tutta la sua vita. E così il preconcetto più comune è pensare che il matrimonio sia fonte di felicità. In un certo senso questa aspettazione ha del vero, ma l'idea che il matrimonio sia fonte di felicità è talmente forte che non si vedono e non si ascoltano gli altri aspetti della medaglia. Ma ancora una volta la parola di Dio è sobria e realistica. L'Apostolo Paolo, tra le tante problematiche, ha dovuto affrontare anche quella del matrimonio. Alcuni credenti gli avevano chiesto come dovevano comportarsi coloro che avevano posto fede in Cristo, e Paolo non prende posizione anche se li invita a rimanere soli per l'imminente situazione di sofferenza che i credenti avrebbero avuto per l'opportunità di svolgere un servizio per Cristo senza distrazioni e per evitare loro delle sofferenze. Sei legato ad una moglie, non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie, non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, tu non pecchi. E se una vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. Ora io vorrei risparmiarvi ciò. 1 Corinzi 7, 27-28. Spesso e volentieri si parla dei piaceri del matrimonio, quali compagnia, l'esercizio lecito della sessualità, l'avere una discendenza, ma pochi mettono in evidenza che il matrimonio procura tribolazione nella carne. Nella carne. Ma se per il 90% si vede il matrimonio come la liberazione dei nostri insistenti impulsi sessuali, in parte è vero, ma occorre tenere presente anche l'aspetto della rinuncia all'esercizio della sessualità imposta per varie ragioni, oltre che tenere presente che non esiste gioia senza dolore. La legge della compensazione impone che ci sia un prezzo da pagare per ogni vantaggio. Il matrimonio porta con sé tante gioie e piaceri, ma come non puoi per natura avere un bambino senza sofferenza, educarlo senza preoccupazione? Così nel matrimonio non si possono ottenere conquiste né piaceri senza sofferenza. È talmente evidente il matrimonio quale strumento di sofferenza che al tempo di Gesù i suoi discepoli, compresa la serietà di una convivenza duratura, risposero: se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi. Matteo 19:10. La risposta dei discepoli di Gesù era che se anche il matrimonio è un dono, se questo dono è così impegnativo, allora è meglio fare senza. Quindi non solo Paolo non vedeva il matrimonio come un paradiso terrestre dove ogni cosa bella e piacevole è alla portata di mano senza difficoltà, ma anche i discepoli di Cristo ritennero opportuno che fosse meglio non sposarsi piuttosto che vivere con fedeltà il rapporto matrimoniale. Sofferenza e fedeltà sono perciò due aspetti che rendono il matrimonio un mezzo per soffrire di più di quello che la vita offre allo scapolo nell'ordinario. Che fare dunque? Evitiamo il matrimonio? No! Le due verità, che il matrimonio è un dono di Dio, ma anche una situazione che procura sofferenza, devono essere messe al loro posto. Innanzitutto, quando si ama una persona proprio per la natura che gli è propria, l'amore soffre. È un'utopia e una favola pensare che quando si ama si vive in uno stato continuo di godimento e di felicità, perché amare significa anche donarsi, rinunciare, e questo non è certamente consono alla nostra natura egoistica. Scriveva lo psicologo Paul Tournier, all'età di 73 anni, i giovani leggono grandi e sapienti libri sulla tecnica sessuale e non si accorgono che tutto si insegna in quei libri eccetto che ad amare. Amare non è una tecnica ma un impegno personale. E un impegno, si sa, richiede sofferenza. Nessun sportivo ha mai raggiunto per primo dei traguardi senza impegno e rinunce. Se l'impegno dei coniugi è quello di far felice il proprio partner, se vi è la gara nel donarsi, allora la sofferenza non è più una nemica, ma una gioia costruttiva. Un contratto matrimoniale non garantisce agli sposi che il loro matrimonio sarà un'oasi di felicità, così come una licenza da pesca non garantisce che si prenderanno dei pesci. Ma la decisione di condividere la vita con chi si ama dà il diritto legale di tentare di raggiungere una gioiosa sofferenza. Il nostro problema non è la sofferenza in sé, perché vivere significa soffrire, e se ci pensiamo bene molte sofferenze le abbiamo perché le cerchiamo come l'alpinista nel raggiungere la vetta. Ma ciò che non siamo in grado di sopportare è soffrire inutilmente. Se sono costretto a soffrire causa la mia ignoranza, mi posso anche arrabbiare con me stesso, ma se è per il bene della persona che amo, allora lo faccio con gioia. Così, la sofferenza nell'ambito matrimoniale è sopportata in proporzione all'amore che si ha per il proprio partner. Dunque, il vero problema in un matrimonio non è se si soffre, quanto si soffre, ma quanto si ama. Ancora una volta, chi ha posto fede in Cristo è riconoscente dell'istituzione del matrimonio perché tale relazione di gioia e di sofferenza lo accomuna al Salvatore Cristo Gesù, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce. Ebrei 12, 2. Aprile 2005. Contributo. Vincolo Santo GBU, Gary Thomas. Ellero.